This tree is a face in the forest, in a land where I belong. We traced a trail in silver from the place that I call home. I know we are made of one another. Like fruits, we only fall to find new ground. Part of me still wants to be together. Every circle grows more each time we draw around. The Forest, il primo singolo in inglese di Erika Mu, uscito appunto quest'anno nel 2019. Erika Mu, cantautrice italiana che ha già all'attivo oltre 500 concerti in Italia e non solo, anche all'estero, 4 album in studio, è ai nostri microfoni per presentarci un progetto che è partito lo scorso 18 ottobre dal titolo Grazie dei Fiori, un nuovo progetto dedicato a 10 figure femminili dei circoli Arci d'Italia. Allora noi presentiamo in diretta Erika Mu. Ciao Erika. Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Allora, noi volevamo chiederti un po' di questo progetto che stai portando un po' in giro per l'Italia a partire dal 18 ottobre e che si prolungherà fino al 10 di novembre. Sì, è un progetto che mi entusiasma un sacco perché oltre a essere chiaramente un concerto, quindi pieno pieno di musica, ha anche questa cornice che accennavi tu, in cui ogni dedica a una donna che mi ha influenzato e ci ha influenzato, quindi delle donne dalle vite interessanti, molto differenti fra di loro, che entrano nello spettacolo sotto forma di racconto e di omaggio musicale. Certo, e questo progetto è stato promosso da Arci, Comitato Regionale Puglia, in collaborazione, esatto, per l'appunto con l'Arci Standby, Santeramo e OTR Live. E abbiamo dato una spulciata alle date e soprattutto alle tappe e abbiamo visto che in Emilia Romagna sarai solamente a Modena l'8 novembre, sì, al Vibra Club. Sì. E, eravamo curiosi di sapere se puoi anticiparci quale sarà la figura femminile alla quale dedicherai questa serata. Non ve lo posso dire. Ok, niente però spoiler. Consideriamo che fino all'8 tante donne le avremo già fatte, perché ne mancheranno solo 3 date. È vero. E giusto. Quindi diciamo sarà facile individuare, potremmo fare una scommessa, il 33% di probabilità di azzeccarla. Abbiamo però cominciato con Mia Martini, la seconda tappa è stata Bevevio. E stasera ci sarà un'altra donna protagonista. Ecco, tu hai scelto delle donne che sono state grandi in vari campi, sì, non esclusivamente in quelli musicali. E che lo sono, molte certo. Sono viventi, sì. Come mai questa, cioè come sei riuscita a rendere questa scelta anche in musica? Come farai questa cosa in futuro anche? Guarda, alcune chiaramente sono delle cantanti, abbiamo Mia Martini, Nina Simone, Raffaella Carrà, quindi diciamo il gioco è più semplice, però in altri casi invece sto scegliendo dei brani che in qualche modo vadano ad omaggiare queste donne. Considera che il racconto della loro vita comunque si incastra anche con tanti pezzi che io ho di solito in repertorio o con pezzi nuovi che sto scrivendo, perché ovviamente poi quando tu scrivi una canzone pensi alla tua vita, ma è molto applicabile fortunatamente alla vita degli altri, no? Questo poi il grande potere della musica, quindi mentre raccontiamo le storie di queste 10 donne inanelliamo anche le mie canzoni e cover qui. Per esempio per Bevevio la cover che gli abbiamo dedicato è stata 4 marzo 1943 di Lucio Dalla, perché anche Beve è nata lo stesso giorno, quindi per esempio carina. Abbiamo trovato questo link tematico. Molto carino. Chi ti accompagna sul palco? Allora, sul palco siamo in 3. Siamo 3 grandi amici di estrazione molto diversa anche noi. C'è Magiker, che è un polistrumentista inglese, che sul palco fa beatbox, suona la batteria, suona l'elettronica, le tastiere, insomma lo vedrete come un polpo sul palco. Tentacolare. Sì, e poi abbiamo Flavia Massimo che suona solo in teoria il violoncello, ma anche lei ha un approccio proprio tentacolare alla musica, perché ecco, non è semplicemente, cioè non è solo classica la sua estrazione, quindi anche lì vi stupirà. Ecco, comunque tu non sei nuova, diciamo, al palcoscenico, anzi, nonostante tu sia molto giovane, hai calcato veramente un sacco di palchi, sei stata candidata per esempio al premio Tenco, hai partecipato al Festival di Sanremo, da quello che ho letto ti sei anche da poco laureata, quindi di esperienza sì. Ne hai fatta. Ci racconti un po' qual è stato il tuo percorso musicale, diciamo, personale? Allora, io ho cominciato a cantare, a studiare musica quando ero bambina, quindi intorno ai 5 anni io ho cominciato a studiare canto, poi ho cominciato a studiare chitarra, poi piano piano le cose si sono fuse insieme, perché io ho sempre avuto una grande passione per la scrittura in generale di parole. Poi studiando musica, piano piano, grazie allo strumento, ho cominciato a scrivere canzoni. E da adolescente, insomma intorno ai 14 anni, facevo dei piccoli concorsi, avevo dei bei feedback e quindi ho detto forse posso cominciare piano a registrarle anche così, queste canzoni sulle cassettine. E a un certo punto in uno di questi concorsi ho conosciuto Red Ronnie, che a sua volta ha mandato il mio video di mentre suonavo a Caterina Caselli, e quindi a 19 anni poi ho firmato questo contratto discografico con Sugar, e da lì sono nate un sacco di, cioè da lì è diventato il mio lavoro oltre che la mia passione da sempre. Però prima avevo già fatto, non lo so, centinaia di pub e di qualunque altro modo pur di suonare, certo. E ancora insomma li faccio, perché poi il tour in collaborazione con l'Arci ti porta in una realtà perfetta, no, per la musica, che se io amo sia fare il teatro, sia insomma, ovviamente se tu mi dici vuoi fare gli stadi tra 10 anni, ovvio che ti dico di sì, però c'è quella dimensione reale del club che è perfetta per fare musica. Anche magari per avere un contatto più diretto con il pubblico? Certo. E anche un pubblico che è abituato alla musica live, questo è importante. Certo, e poco fa abbiamo trasmesso A Ring in New Forest, che è il tuo primo singolo in inglese, uscito recentemente nel 2019. Anticipa l'uscita di un album? Non in senso stretto, perché io sto lavorando a un album, ho lavorato molto in quest'ultimo anno, però questo non è il classico singolo apripista, è un progetto che è nato a sé stante, perché è un progetto che è un omaggio alla natura che ho fatto insieme a un art director. Infatti io vi invito, se avete curiosità, magari a vedere proprio il video di questa canzone, perché la canzone nasce ispirata dalle immagini, che sono un omaggio agli alberi e alla loro trasformazione, diciamo, con dignità e cura, come quella che può avvenire nelle mani di un liutaio quando la natura viene trasformata con rispetto e da un albero nasce una chitarra. Quindi è un progetto che viaggia da solo, è parte integrante di Grazie dei Fiori, e poi insomma nel futuro, non so se sarà nel prossimo album, probabilmente sì, però ecco, anche no, non è obbligatorio. Allora noi a questo punto ne approfittiamo per già anticipare un'ipotetica futura intervista per quando uscirà questo album, prodotto di questo lavoro appunto che stai continuando a fare costantemente, e nel mentre ti ringraziamo per essere stata ai nostri microfoni a presentare questo grazie progetto a voi. E ti vediamo, salutiamo a Modena volentieri. Molto volentieri. Dai. Grazie. Grazie, buona giornata a voi. Ciao ragazze. E noi adesso vi facciamo ascoltare un altro singolo di Erika Mu, questo è Svuoti i cassetti. Svuoto i cassetti di questa casa imperfetta e penso a quanto sono stata stretta nei panni che non erano i miei. Chi la salverà? Erika spaesata. Chi se la porterà a casa? Chi le darà la mano per strada? La scalderà in una stanza gelata? Chi la metterà in guardia dagli sconosciuti e le aprirà i barattoli chiusi? Chi le farà da mangiare? Chi le regalerà un anello a Natale? Chi la inviterà a ballare? La porterà al mare? Le insegnerà a nuotare? Chi se la piglia in famiglia? Chi la striglia quando sbaglia? Chi la consiglia? Chi la calmerà dopo gli incubi di notte? Chi le reggerà la fronte? Chi le asciugherà le guance? La porterà in braccio per le scale quando dorme? Svuoto i cassetti di questa casa imperfetta e penso a quanto sono stata stretta nei panni che non erano i miei. Svuoto i cassetti di questa casa imperfetta e penso a quanto sono stata stretta nei panni che non erano i miei. Chi la salverà questa figlia di papà? A chi ci andrà al cinema insieme? Chi le spegnerà la luce e le canterà sottovoce? Chi le allaccerà le scarpe? Chi le presterà le dita per contare? Chi le insegnerà la vita? La porta a spasso nel barco, guinzaglio e bavaglio, ninna, oh. Questa bimba chi la do? Un po' a me, un po' a te, solo nei weekend. Chi le dà aiuto e non le crederà quando grida al lupo, al lupo? Che cuore grande per amarmi meglio, che occhi grandi hai per leggermi dentro, che bocca grande hai per mordermi. Svuoto i cassetti di cuore.